2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 5 ottobre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Da questa settimana, con l'avvio del nostro nuovo palinsesto, abbiamo cambiato leggermente di orario. Sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15 e le 16. Poi naturalmente ci trovate anche online nella nostra versione digitale sul sito internet della radio www.radio24.it in podcast, quindi vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente naturalmente al nostro servizio podcast. Ogni settimana sono migliaia le persone che ascoltano in un altro momento della giornata o anche della notte la puntata appunto di 2024. Ci ascoltate anche in Digital Radio, la radio digitale che si sta diffondendo in tutta Italia e anche in streaming. Vi ricordo che tra le novità di 2024 c'è anche una replica la domenica alla sera tra le 23 e le 24. Le ultime indicazioni che vi do prima di tuffarci nell'approfondimento di questa settimana, negli approfondimenti di questa settimana, i nostri contatti. Potete contattarci tramite Facebook, tramite Twitter, chiocciolina e underscore Pagliarini, oppure l'account di 2024, o potete utilizzare anche la posta elettronica 2024@radio24.it. Probabilmente alcuni di voi sono utenti di prodotti Adobe. Allora, Adobe, lo ricordiamo, uno dei più grandi produttori di software al mondo, sta in California, a San José. Beh, ricordiamo Acrobat Reader, chi non conosce questo software per visualizzare i file PDF, famosissimo. Poi un altro software famosissimo è Photoshop. Allora, molti, immagino anche dei nostri ascoltatori, sono registrati anche ai servizi di Adobe, e molto probabilmente quelli che sono registrati hanno ricevuto in questi giorni una email che ha delle informazioni importanti. C'era scritto Important Password Reset Information. Ho ricevuto anche io questa informazione, avevo già visto le notizie che circolavano su internet, perché Adobe Systems ha rivelato questa settimana che un gruppo di pirati informatici sono penetrati nei sistemi dell'azienda rubando un po' di cose. Allora, codice sorgente di alcuni dei suoi software più popolari, questa è una cosa abbastanza grave. Poi i dati di quasi 3 milioni di clienti. Allora, naturalmente l'azienda non detiene dati sensibili, ma sicuramente qualche cosa che può far ricostruire l'identità di molti. Allora, parliamo di quasi 3 milioni di clienti. È per questo motivo che Adobe ha spedito questa email dicendo, insomma, cambiate la password almeno, di modo che questi pirati informatici non possano entrare nel vostro profilo. Dicevo, la cosa che più preoccupa è che è stato rubato anche codice sorgente, quindi di fatto le chiavi di accesso a come è costruito il software. In questo caso potrebbero questi dati, questo codice sorgente potrebbe condurre a nuovi attacchi informatici direttamente sul software, quindi potrebbe essere colpito questo software. Allora, a proposito di sicurezza, giovedì al Security Summit di Verona è stato pubblicato l'aggiornamento del rapporto Clusit 2013. Il Clusit è l'Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia, un'associazione senza fini di lucro e anzi utile per la diffusione della cultura informatica, la cultura della sicurezza informatica. Secondo il rapporto, appena il 2% degli italiani dichiara di avere piena consapevolezza dei rischi informatici e di prendere adeguate contromisure. 2%? Siamo messi male? Però quasi 9 milioni di utenti sono stati oggetto di qualche forma di crimine realizzato via internet. Però non ci sono nel nostro paese adeguate politiche di sicurezza informatica né adeguati investimenti a livello statale e aziendale che proteggano la ricchezza della proprietà intellettuale, scrive il Clusit, e si possono stimare già in, attenzione, alcuni miliardi di euro per ogni anno i danni derivati dagli attacchi informatici. Abbiamo parlato di questo e soprattutto dell'aggiornamento, di quanto le cose cambino da trimestre a trimestre. Abbiamo parlato dell'aggiornamento di questo rapporto con Cristiano Cafferata, che è country manager di Sonic Wall Italia, ma soprattutto è uno di quelli che ha partecipato all'aggiornamento di questo rapporto. Le analisi e gli aggiornamenti in particolare riguardano proprio le differenze su quali sono le tipologie di attacchi, ma anche le motivazioni per cui gli attacchi sono diversi rispetto a prima. E abbiamo visto una differenza, per esempio, da quello che erano i rapporti fino a dicembre dell'anno scorso a quello che sono stati i primi sei mesi di quest'anno, dove la percentuale di attacchi alle reti sono stati motivati o riconosciuti più come motivati da formule di attivismo che non da formule di cyberterrorismo o tutto ciò che era nel passato il puro attacco a una rete per esportare dati. Adesso si sta consolidando sia una formula di sfruttamento di questi dati, sia un ecosistema molto grosso che guadagna da questo tipo di attività, quindi ha delle motivazioni in questo momento corpose, ma contemporaneamente a questo c'è altrettanto, grazie in realtà a questo ecosistema, una motivazione diversa, una motivazione che sembra essere culturale, una motivazione che sembra essere legata all'ambito umano e non più solo a quello del terrorismo informatico. Spieghiamo bene questo passaggio, quindi mi stai dicendo che c'è sicuramente ancora, e immagino che stia crescendo, una componente di persone tecnicamente molto esperte che attaccano reti informatiche, banche, eccetera, eccetera, aziende per guadagnare, quindi certo. Rubare soldi, certo. Oppure proprietà intellettuale, progetti, eccetera, eccetera. Ma assieme a questo sta crescendo l'attivismo. Definiamo meglio attivismo digitale, cosa significa? Abbiamo visto gli ultimi casi pubblici, probabilmente i più noti, quelli che hanno fatto più scalpore, dove il caso Snowden, che ha portato alla ribalta al fatto che formule di fughe di dati, quindi comunque un'azione informatica a recuperare informazioni molto particolari o riservate, sono state utilizzate per dimostrare che addirittura un ecosistema, un paese a livello politico o a livello pratico stava comunque facendo delle azioni da valutare. Non posso io permettermi di dire se è corretto o scorretto, ammetto, ma sicuramente ha portato alla luce qualcosa di legato all'ambito umano, ai cittadini, alla vita di tutti i giorni, al controllo delle comunicazioni. Quindi non più copio i dati di un'azienda concorrente per fargli concorrenza sleale o per rubargli il cliente, copio i dati di un soggetto, di un comunque bersaglio, con lo scopo di pubblicare queste informazioni per far sì che qualcuno fuori scopra o sappia informazioni che magari normalmente non avrebbe visto, non avrebbe avuto. Quindi sta crescendo, diciamo, stanno crescendo tante WikiLeaks. Non so se sono tante, ma sicuramente è legato a quello che è l'immagine di WikiLeaks. Tutto ciò che riguarda DLP, quindi Data Leak Prevention o Data Loss, è diventato molto più data leak, nel senso che sono fughe di dati utilizzate per erudire chi da fuori non avrebbe avuto queste informazioni. E a questo punto uno potrebbe dire: ma a me cosa interessa? Le fughe di notizie riguardano solo grandi istituzioni, le leggiamo soprattutto e spesso sui media americani. Allora, non è esattamente così. Questo è un fenomeno che potrebbe riguardare molte aziende e probabilmente riguarda già molte aziende, ma non lo sanno né le aziende né noi. Potrebbe riguardare anche aziende medio-piccole, la cui reputazione potrebbe essere messa a rischio proprio da fughe di notizie incontrollate. O uno ha un pedigree assolutamente limpido, ma in quasi tutte le aziende ci sono cose che giustamente non si vogliono fare saper fuori. Allora, sicuramente con i media digitali, con basta a volte un telefonino per far uscire informazioni. Poi, oltre alla reputazione, c'è il capitolo proprietà intellettuale, segreti industriali, molto importante. Si dovrebbe fare di tutto per evitare fughe di notizie e quindi fare di tutto sia per evitare che un dipendente o un collaboratore infedele porti via uno o più file, sia per evitare che da fuori ci sia un attacco informatico. Naturalmente non è possibile evitare tutto ciò al 100%, ma si può far molto, sia con la tecnologia, sia con procedure e anche cultura informatica, cultura della sicurezza all'interno delle aziende, per ridurre di molto questo rischio. Sicuramente le aziende stanno di nuovo cercando di investire, malgrado sicuramente il periodo che non è dei più semplici, in sicurezza informatica, perché anche a livello Stato si è reso pubblico l'esigenza di tutelare i dati. Si cerca di tutelare un argomento molto importante, tutelare quello che è l'ambito SCADA, ovvero gli ambiti industriali dove gli oggetti collegati in rete, per semplificare al più possibile, non sono controllati da un essere umano ma sono puramente computer, gestiti da computer. Ci si è resi conto che sono anche questi bersagli a rischio e magari sono all'interno di infrastrutture critiche, quindi lo Stato ha incominciato a preoccuparsene molto più seriamente, anche con delle iniziative molto intelligenti. Sulla scia di questo si è anche il responsabile, l'amministratore delegato delle aziende, si è reso conto che corre dei rischi. I rischi sono il non più solo il concorrente, ma il fatto di diventare lui stesso parte di una rete che compie comunque delle azioni non corrette nei confronti del resto della cittadinanza o degli utenti di internet, e quindi stanno cercando di correre ai ripari, un po' obbligati, un po' perché sono diventati, per fortuna, dopo anni di lavoro, Clusit compreso, hanno capito quali sono i veri pericoli. Il cellulare che ho in tasca costantemente è diventato un bersaglio, e il mondo, quello che a livello marketing si chiama BYOD, quindi bring your own device, porti il tuo telefono sul lavoro, è diventato anche questo un vettore di possibili problemi, e per la rete dell'azienda, ma e per l'utilizzatore stesso. La perdita di tutte le sue informazioni o la clonazione dei suoi dettagli personali o delle sue informazioni viene usata per generare identità, viene utilizzata per ricollegare diversi fruitori di queste informazioni, che non rubano soldi, giusto per chiarire, ma tendenzialmente le usano per poi compiere altre azioni. Ci sono parti di internet che sono molto meno note al pubblico, si dice che siano la dark side o la deep side di internet, e in queste si possono, per esempio, fare acquisti molto particolari di sostanze o armi o informazioni non legali e non lecite, e ovviamente per fare questo tipo di acquisti bisogna in qualche modo registrarsi. Rubare i dati dal telefono di una persona qualunque per strada, o copiare grazie a un RFID, sistemi a distanza dove non serve neanche toccarsi, clonare i dati di un passaporto o di una carta di credito, mi permettono in realtà di accedere a una registrazione simulando di essere qualcun altro. Certo, rubando l'identità di un altro. Senti, queste cose sono, io sto parlando con un esperto di sicurezza, sono cose difficili da fare, cioè le fanno solo gli esperti, e se le volessi fare io devo assoldare un esperto cattivo, naturalmente non un esperto buono, o sono alla portata di molti, non di tutti naturalmente? Allora, non sono alla portata di tutti, sino a che tutti non hanno voglia semplicemente di investire un po' di tempo a studiare. Purtroppo sono più facili di quello che sembra. A me dispiace sempre spaventare le persone, ma una realtà molto semplice e una dimostrazione molto semplice è il fatto che tendenzialmente un banale telefono capace di leggere dei tag a distanza, non so se hai in tasca, tu me lo stai facendo vedere, in effetti stai nel tuo smartphone, nel mio smartphone sto cercando il mio passaporto per farti vedere quanto è facile in maniera veramente 4 secondi avere tutte le informazioni del mio passaporto. Beh, naturalmente Cristiano Cafferata, che è uno degli esperti di informatica che hanno partecipato all'aggiornamento del rapporto Clusit, e un grande esperto di sicurezza, beh, la fa un po' facile, però è vero che molte persone, studiando, documentandosi, possono arrivare ad ottimi risultati. E molto, come dicevamo prima, molte di queste cose si possono evitare con comportamenti, anche a volte con il buon senso. E magari non tenere il passaporto in una tasca laterale, ma tenerlo in una tasca interna, ad esempio. Questo è proprio un esempio molto semplice di un buon comportamento. Poi, quando si tratta di proteggere sistemi informatici industriali, le cose sono sicuramente molto più complesse. Ma tornando a quello che diceva Cafferata, è molto importante essere consapevoli dei rischi, perché a volte magari non si viene attaccati direttamente, non vengono rubate informazioni, ma vengono utilizzate o le infrastrutture della nostra azienda o addirittura anche di casa nostra, del nostro computer, per fare attacchi e noi manco ce ne accorgiamo, oppure per rubare l'identità, la nostra identità, o anche identità che sono sparse all'interno delle aziende per fare cose illecite. A proposito di Dark Side of the Net, i Pink Floyd cantavano Dark Side of the Moon, la parte oscura della luna. Beh, c'è la parte oscura anche della rete, ne parliamo tra poco. 2024. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che da questa settimana con l'avvio del nuovo palinsesto di Radio 24 abbiamo cambiato leggermente orario nel sabato pomeriggio tra le 15 e le 16, ma c'è una novità perché siamo in onda anche la domenica alla sera tra le 23 e le 24. Tra poco parleremo di radio digitale, di Digital Radio. Potete ascoltare anche Radio 24 in Digital Radio e anche di TV digitale. Quando parliamo di TV digitale parliamo di streaming online, parliamo di TV via satellite e anche di digitale terrestre. Invece adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Iniziamo da una notizia che si lega con quello che dicevamo poco fa. Abbiamo parlato della cosiddetta Dark Side of the Net, quindi la parte oscura della rete internet. Beh, sentite che cosa è successo questa settimana negli Stati Uniti. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Questa settimana le autorità federali americane hanno chiuso il più celebre sito di e-commerce illegale, si chiama Silk Road. Hanno arrestato il proprietario, un 29enne che si chiama Ross Albright, per traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro e reati informatici. Quindi il virtuale che diventa poi in realtà reale. Questo sito è stato lanciato nel 2011. Silk Road, la strada di seta, aveva un giro d'affari, pensate, di circa 1,2 miliardi di dollari. Si è fatto conoscere, è diventato famoso soprattutto per il traffico d'armi, di droga, di documenti falsi e anche materiale pornografico. Era accessibile solo dalla rete Tor, una rete parallela. Servono particolari software per entrare in questa rete, dove non si riesce ad essere intercettati, riconosciuti, anche se ultimamente si è parlato molto, soprattutto le autorità americane, la National Security Agency, si dice che sia in grado di intercettare anche sulla rete Tor. Comunque questa è una rete internet parallela, diciamo così, e viene anche definita la parte oscura della rete. Questi siti internet come Silk Road, che non è l'unico, sono siti difficili da raggiungere. Pensate che però, nonostante le difficoltà, evidentemente i malintenzionati, i banditi sono molti, c'era quasi 1 milione di utenti registrati a Silk Road. Digital News. Notizia che arriva invece dall'Italia, riguarda l'Italia, il nostro paese. Telecom Italia ha deciso di congelare il progetto di scorporo della rete. Se ne riparlerà il 7 novembre. Intanto ricordiamo che l'amministratore delegato di Telecom, Marco Patuano, dopo le dimissioni del presidente Franco Bernabé, ha ricevuto provvisoriamente tutte le deleghe e le attribuzioni organizzative. Nelle prossime settimane Telecom Italia, o addirittura anche nei prossimi giorni, nominerà un nuovo presidente della società. Questo è un tema da seguire con attenzione, perché naturalmente attraverso Telecom e tutto quello che gira attorno a Telecom, ad esempio il progetto di scorporo della rete e tutto il dibattito, insomma attraverso tutto ciò passa il futuro digitale, buona parte del futuro digitale del nostro paese. BlackBerry è in trattative con un po' di aziende, allora Cisco Systems, Google e SAP per una vendita, ma ci sarebbero altre aziende interessate, probabilmente meno rispetto a queste tre citate. Ci sarebbe anche l'interesse di Intel, LG e Samsung. Ricordiamo che BlackBerry ha raggiunto un accordo preliminare con Fairfax Financial, una finanziaria canadese che guida un gruppo di investitori per acquisire la società, che finora non è riuscita a resistere alla concorrenza di Apple e di tutti gli smartphone con sistema operativo Android. Sono 2,37 milioni, quindi 2,4 quasi milioni di italiani ancora in digital divide, cioè senza accesso alla banda larga. Sono il 4% della popolazione italiana. E alcuni di voi diranno: no, ce ne sono di più. Allora, questo è un dato che emerge dall'osservatorio trimestrale dell'AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, aggiornato alle 30 di giugno. Questo indice, che appunto si è ridotto negli ultimi tempi al 4%, secondo AGCOM, ma effettivamente c'è da crederci, si è ridotto a questo punto, a questo limite, grazie alla copertura wireless. Effettivamente, dove non esiste la DSL, aperta e chiusa parentesi, bisogna poi vedere che tipo di ADSL è, perché a volte ci sono delle ADSL che hanno velocità abbastanza anacronistiche per il 2013, 2014, eccetera, eccetera. Chiusa la parentesi, dicevo, le tecnologie wireless, ovvero le tecnologie degli operatori mobili, ma anche di tutti quegli operatori spesso locali, alternativi, che utilizzano Hyperlan e WiMAX, quindi onde radio che da un'antenna arrivano a casa nostra, beh, queste sono sicuramente alternative molto interessanti per utilizzare internet dove appunto non c'è una buona ADSL o non c'è nemmeno la fibra, ma questo sappiamo che esiste solo in alcune città, in poche, per poche ancora abitazioni rispetto alla popolazione italiana. Adesso parliamo di radio digitale. Questa settimana c'è stato un interessante incontro tra la Volkswagen, che tra i produttori di automobili è sicuramente tra i più interessanti all'evoluzione della radio digitale, della digital radio, oggi la chiamiamo così, un incontro tra gli operatori nazionali che stanno già investendo e stanno già coprendo il paese con i segnali della digital radio, appunto Volkswagen. Oggi su molte auto, in generale sul mercato, esistono già ricevitori per la radio digitale terrestre, quello che una volta chiamavamo DAB, oggi lo chiamiamo Digital Radio. Il mercato sta valutando un po' tutti i produttori, poi c'è chi è più interessato, più attento alle evoluzioni tecnologiche e chi un po' meno. Comunque il mercato sta valutando la possibilità sia di abbassare il prezzo di questi apparecchi. Ci sono automobili che richiedono un centinaio di euro per, come optional, per avere anche la possibilità di ricevere la radio digitale, altre che invece ne richiedono 200 o 300. Quindi un primo passo è abbassare il prezzo di queste autoradio, che spesso sono optional, ma anche di inserirle di serie su alcuni modelli, come già oggi accade, ma sono ancora molto pochi. Ci sono alcuni nostri ascoltatori che mi hanno scritto e sono soddisfatti perché ci ascoltano in digital radio. La caratteristica più importante è una ricezione perfetta senza le interferenze tipiche dell'FM, quindi sicuramente molto adatta all'ascolto in mobilità con l'automobile, perché se uno è fermo e ha una buona ricezione in FM naturalmente non ha molti disturbi, anche se in alcuni casi ci sono disturbi, però in automobile è più facile passare in alcune zone dove l'FM, sappiamo qual è la situazione dell'FM italiana, è disturbata. Questa è la caratteristica più importante. Se volete saperne di più, ne parleremo presto, perché ci saranno alcune novità nelle prossime settimane, direi entro sicuramente il mese di ottobre, per quanto riguarda la copertura. Già buona parte del nord Italia, la pianura padana, è coperta dai segnali della Digital Radio, anche di Radio 24 e di altri editori nazionali, altre radio nazionali, e stiamo completando la rete autostradale verso Roma. Anche l'area metropolitana di Roma è già coperta, ma ci saranno alcune novità, quindi ne parleremo. Allora, maggiori informazioni le potete raccogliere e leggere su digitalradio.it, scritto digitalradio.it. Abbiamo parlato anche di TV digitale. C'è stato in questa fine settimana, c'è stato All Digital a Vicenza, si è parlato sia di radio digitale, ma naturalmente molto di TV digitale. Le novità, potrei dire, le riassumerei in tre capitoli, sono di tre tipi le novità. Allora, nei prossimi mesi la RAI comincerà a trasmettere in HD i primi tre canali sul digitale terrestre, quindi RAI 1, RAI 2, RAI 3, e molti diranno, beh, finalmente, perché sul digitale terrestre, devo dire, ci sono ben poche trasmissioni in alta definizione. Di fatto la RAI ha un canale, il 501, che trasmette in alta definizione, ma nulla di più. Allora, si estenderà anche l'offerta sulla piattaforma satellitare TVSAT, che è una piattaforma che ripete tutti i canali tipici del digitale terrestre, ma via satellite. Quindi chi ha problemi con il digitale terrestre può fare il passaggio a TVSAT via satellite. Ad esempio, la 7 ha annunciato che trasmetterà in alta definizione su TVSAT. Tempo poche settimane. E poi ci sarà una nuova offerta in alta definizione in arrivo anche su Sky, ma forse la novità più interessante che riguarda la TV, ma riguarda anche internet, è lo streaming su internet. Ne parleremo tra poco, perché sia Sky che Mediaset stanno per lanciare due piattaforme, visto che si è parlato per molto tempo del possibile arrivo di Netflix anche in Italia. Netflix è una piattaforma nota negli Stati Uniti perché sulla base di un abbonamento mensile di circa una decina di dollari permette di guardarsi film illimitatamente, quindi quando uno vuole. Sia Sky che Mediaset stanno per lanciare piattaforme utilizzabili via internet proprio nelle... con questo concetto, ne parleremo tra poco. Allora andiamo con ordine, iniziamo dal futuro e quindi parliamo di quello che alcuni chiamano 4K, altri chiamano Ultra HD. La stessa industria si deve ancora mettere d'accordo. Ne abbiamo parlato con Renato Farina, che è l'amministratore delegato di Eutelsat Italia, e ci spiega quando arriveranno le prime trasmissioni in 4K oppure, come dicono in molti, in Ultra HD. Sì, noi abbiamo già cominciato a sperimentarle e abbiamo già cominciato dal 1 gennaio delle trasmissioni sperimentali sul satellite. Oggi abbiamo 3 canali sul satellite in Ultra HD. La sperimentazione che noi facciamo sul satellite è appunto per seguire queste evoluzioni tecnologiche per arrivare poi al giusto compromesso, alla giusta offerta di qualità per arrivare alla commercializzazione di questi canali Ultra HD che noi prevediamo nei prossimi 3-4 anni. Ecco. Stiamo parlando di una tecnologia che è l'evoluzione dell'HD. Oggi naturalmente il satellite rappresenta lo spazio dove l'HD si esprime, perché se guardiamo il digitale terrestre c'è molto poco. Ci fa una panoramica sull'attuale e su, dal vostro punto di vista, l'evoluzione dei canali HD? Sì, allora i canali HD oggi abbiamo più di 60, quasi 70 canali in HD sul satellite, nell'offerta almeno per quanto riguarda l'Italia, mentre per quanto riguarda l'Europa abbiamo molto più di 400 canali HD offerti. È ovvio che noi stiamo sempre più aiutando a fianco ai nostri partner per aumentare l'offerta HD, cosa che spero succederà presto, anche come è stato annunciato dai nostri partner nel panel. Di conseguenza stiamo puntando verso questa offerta sempre maggiore di canali HD, ma ovviamente nel momento in cui si cominceranno a fare delle proposte commerciali anche dell'Ultra HD, il satellite è pronto a supportare questa nuova offerta, ovviamente nella posizione a 13 gradi ed anche nella posizione a 9 gradi, che è una posizione gemella a 13 gradi. Per entrare nel concreto anche del mercato, lei si aspetta che quindi ci sia una piattaforma che offrirà altri contenuti in HD via satellite? Ma io non mi aspetto che ci siano altre piattaforme, mi aspetto che le piattaforme oggi esistenti aumenteranno l'offerta in HD. Mi sto dicendo che aumenteranno i canali HD di Sky, aumenteranno sicuramente i canali HD della piattaforma TVSAT. Altri canali indipendenti non li vedo per il momento. Quindi in Italia difficilmente nascerà una piattaforma alternativa come esiste in Germania, che si è specializzata proprio in trasmissioni in alta definizione. Comunque tutto il mercato, visto che in Italia oramai molte TV nelle case degli italiani sono abili a ricevere segnali in alta definizione, beh, un peccato che sul digitale terrestre ci sia così poca offerta in alta definizione. C'è sicuramente un'offerta molto ampia di Sky e un'offerta che crescerà molto sulla piattaforma satellitare TVSAT. Continueremo a parlare di TV digitale tra poco. 2024. Tra poco parleremo di action camera o action cam, cioè le videocamere che vengono utilizzate dagli sportivi che fanno anche sport estremi, ma anche quelli che fanno sport molto tranquilli e rilassati per riprendersi. Stanno avendo un grande successo, c'è stato recentemente un aggiornamento e ne parleremo tra poco. Adesso stiamo parlando di TV digitale, giusto per fare una panoramica su quello che sta succedendo. Tutti i produttori, ma anche gli editori di contenuti e chi trasmette i segnali, tutto questo ecosistema complesso sta lavorando sul 4K o anche detto Ultra HD, che è un'evoluzione dell'alta definizione. Molti si domandano, ma i consumatori poi sono in attesa di ricevere questi segnali in fibrillazione? Il mercato ne ha veramente bisogno? Beh, vedremo che cosa succederà. Sicuramente le prime trasmissioni commerciali arriveranno nel 2016, non prima. Oggi già ci sono TV 4K, ma sono pressoché non utilizzabili con segnali 4K, ma sono utilizzabili con altro tipo di segnale nella normale alta definizione. In ogni caso, per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà, abbiamo parlato di questo con Massimo Bertolotti, che si occupa di innovazione all'interno di Sky Italia. Anche Sky sta lavorando, come del resto tutte le grandi TV italiane, a questa evoluzione tecnologica. Parleremo però anche di un'evoluzione molto più vicina, perché tra pochi mesi, poche settimane forse, per quanto riguarda Mediaset, arriveranno piattaforme di distribuzione di canali e di programmi via internet. Bertolotti sull'Ultra HD. Noi abbiamo iniziato a lavorare sull'Ultra HD all'inizio di quest'anno con diversi partner e stiamo continuando a fare prove sia di ripresa che di lavorazione del contenuto che di trasmissione dei contenuti. Questo perché? Perché l'Ultra HD è ancora in un momento in cui la standardizzazione ha appena rilasciato gli standard chiave, ad esempio l'HEVC piuttosto che l'HDMI 2.0 e via dicendo. Quindi c'è necessità sicuramente di imparare e di lavorare sulla tecnologia per capire dove, come fare le riprese, come trasportare il segnale e come portarlo a casa dei clienti. Certo, quindi siamo ancora in una fase di evoluzione, diciamo così. Esatto. Ma dal vostro punto di vista, quali sono i vantaggi principali della ultra alta definizione? Perché se noi pensiamo all'alta definizione, beh, forse il vantaggio che più spicca agli occhi dei telespettatori è che si vede molto meglio rispetto alla definizione standard in 16 noni, eccetera eccetera. Con l'Ultra HD cosa succederà? Allora, si vedrà, allora, oltre a vedersi meglio, diciamo così, che è semplicemente la facciata e il claim di Ultra HD, perché è l'Ultra HD. L'Ultra HD porta con sé altre migliorie, altri fattori chiave che sono oltre la risoluzione è il frame rate, quindi si entra in una logica di frame rate che non sono più 25 frame per secondo ma diventano 50 e poi nel futuro diventeranno 100. Quindi traduco, c'è una fluidità di immagine maggiore. Esatto, si vedranno dettagli maggiori. Serviranno per due grossi scopi: uno per dare una qualità maggiore e l'altro per far vedere cose che fino ad oggi con l'HD non eravamo in grado, le stesse cose che in proporzione con l'HD sono venute fuori nel passaggio da SD a HD. Quindi facciamo sempre un esempio: immagini prese dall'alto, prese dietro la porta, è possibile non semplicemente la porta di calcio, esatto, o di un campo da basket dietro al canestro, non si inquadra più semplicemente una porzione di campo, ma si riesce a inquadrare tutto il campo, dando una visione molto simile allo stadio. Naturalmente voi state guardando su tanti fronti l'evoluzione tecnologica in questi giorni, da molti mesi state lavorando ad una piattaforma che è una sorta di evoluzione della vostra offerta Sky On Demand, che richiede un collegamento ad internet. Ci sono notizie proprio di questi giorni che parlano di una piattaforma che uscirà dal classico bouquet di Sky considerato come abbonamento e come decoder. Che cosa sarà? Sì, allora è una, sì, esattamente, è una piattaforma sempre basata su un sistema di distribuzione over the top, quindi svincolata dal broadcast in questo caso. Non sarà più richiesto l'abbonamento per poter sottoscrivere questo tipo di nuova offerta e sarà disponibile per tutti quelli che sono definiti smart device, quindi gli apparati che oggi noi conosciamo come apparati dove è disponibile Sky Go, ad esempio, ma anche apparati più vicini alla casa, quindi game console, TV connesse, per portare a casa di alcuni telespettatori non con l'abbonamento anche la possibilità di vedere contenuti Sky attraverso le smart device di casa. Sì, possiamo paragonarla alla vostra offerta che già esiste in Gran Bretagna, sì. Si chiama Sky Now TV. Più o meno come funziona? Quindi io faccio anche in quel caso un mini abbonamento o posso pagare i contenuti singolarmente? Ci sono, al momento è ancora in definizione gran parte di queste dell'offerta commerciale. Ci sono sicuramente delle subscription che non sono annuali, ci saranno anche dei contenuti che potranno essere acquistati sul singolo contenuto, quindi quella che è definita più o meno pay per view. Avrà contenuti sia di tipo lineare, avranno anche contenuti quindi di tipo ad esempio sportivo, per poter garantire anche la visione di contenuti sull'evento specifico, e contenuti di library e di VOD per soddisfare l'esigenza di clienti cinema. Diciamo, basta avere internet e poi si può fare questo, si può utilizzare questo servizio. Diciamo, basta avere internet ed avere uno degli N apparecchi smart che saranno abilitati a questo servizio, che pian piano cresceranno nel tempo. Quando arriverà? Primavera, comunque nel primo semestre del 14. Poco fa dicevo che probabilmente il mercato non è così desideroso di ricevere segnali in una definizione ancora maggiore rispetto all'alta definizione, all'HD, quindi non c'è ancora così tanto interesse verso l'ultra HD, ma del resto, come dicevamo poco fa, le prime trasmissioni commerciali arriveranno fra un paio di anni almeno. Invece c'è molto interesse per piattaforme come quella di cui parlavamo poco fa. Il nome in codice è River per quanto riguarda Sky. C'è anche una piattaforma concorrente che dovrebbe essere pronta per il mercato prima di Natale, si chiama Infinity ed è di Mediaset. Il concetto è molto semplice: io attraverso internet posso collegare anche il televisore di casa ad internet, ma posso utilizzare il computer, il tablet o addirittura anche lo smartphone, e posso o con un abbonamento vedere tutto quello che voglio, oppure pagare programma per programma. Voglio vedere una partita, pago 2 euro, 3 euro, eccetera, eccetera, e guardo quella partita. Tutto via internet, molto semplice, molto facile, molto fluido. Direte voi, ma bisogna avere internet, abbiamo detto che ancora il 4% degli italiani hanno difficoltà, e forse potremmo estenderlo anche ad una percentuale più alta per vedere con fluidità canali di questo tipo, e sicuramente questo rimane un problema, ma pian pianino riusciremo a fare anche una diffusione di cui parliamo spesso a 2024. Adesso parliamo di Action Camera, di Action Cam. Ne abbiamo parlato con Gianfranco Giardine, il direttore del magazine digitale dday.it, e ne parliamo perché questa settimana il produttore più famoso di Action Cam, GoPro, ha aggiornato il proprio catalogo, ha fatto alcuni aggiornamenti di alcuni prodotti sicuramente molto interessanti. Che cosa sono le Action Cam? Le Action Camera sono di fatto delle videocamere, anche fotocamere, espressamente pensate per un utilizzo in ambito sportivo o comunque in un ambito di attività tali che richiedono per esempio una videocamera che sia stagna, che abbia determinate caratteristiche, che permetta di essere montata e fissata anche su supporti, per esempio su una bicicletta, su una moto, su un casco, eccetera, eccetera. Quindi tutte le attività sportive o ricreative outdoor che richiedono, semplicemente perché si è appassionati di quell'attività, una documentazione. Quindi voglio riprendere la mia discesa con gli sci, voglio riprendere la mia discesa in bicicletta o semplicemente una passeggiata. Ecco, devo avere una videocamera che ha determinate caratteristiche che non sono quelle di una videocamera che uso per esempio per il compleanno in casa o per le riprese di famiglia. Ecco. Quindi gli smartphone e le videocamere normali o le fotocamere, che sono anche oramai videocamere, non vanno bene? Beh, non così bene. Le Action Cam hanno delle caratteristiche fondamentali, devono averle per forza. Innanzitutto sono stagne, e molto ben stagne. Ci sono tanti smartphone ormai che sono stagni anch'essi, ma se basta che uno sportellino non sia chiuso a dovere e tutto questo, diciamo, caratteristica waterproof si perde completamente. Ecco, invece le Action Cam sono stagne, sono capaci di resistere a un acquazzone, a una caduta nella neve, a una caduta in acqua, anzi sono di fatto anche subacquee. Dopodiché devono avere un'ottica molto larga, quindi normalmente un'ottica 120, 130, anche 170 gradi a seconda dei modelli. Questo per un semplice fatto: innanzitutto devono inquadrare un campo molto largo, e poi in realtà, avendo un campo largo, le immagini che sono strutturalmente traballanti, pensiamo che immagini possiamo catturare per esempio da una bicicletta, da un casco di uno sciatore, risultano meno traballanti perché stiamo usando un grandangolo molto, molto ampio, quindi il risultato finale non darà il mal di mare, diciamo così, a chi poi lo guarda, e questa è una seconda caratteristica. Una terza caratteristica è quella di poter essere comandata, se possibile, in remoto. È chiaro che se io un action cam la monto su un caschetto, su una tavola di snowboard o di windsurf o di kitesurf, ho bisogno di dare lo start and stop in maniera facile, di sincerarmi la videocamera sia effettivamente in funzione. In molti casi ho anche bisogno di sapere che cosa sto inquadrando. I primi modelli addirittura non facevano neanche vedere che cosa si inquadrava, o lo facevano vedere in maniera molto precaria. I modelli attuali, i migliori, permettono anche il controllo remoto via smartphone, quindi per esempio posso inquadrare, vedere cosa sto inquadrando via smartphone, darlo start, mettere via lo smartphone e partire. Ci sono poi moltissimi accessori che forse sono una delle caratteristiche o il giusto completamento di queste fotocamere, videocamere, non so come chiamarle. Molte volte gli accessori sono molto più che degli accessori, cioè sono proprio parte integrante del prodotto, ovvero sia gli appassionati scelgono una action cam, cioè un modello specifico, proprio perché sono disponibili gli accessori adatti per la sua pratica sportiva. Per esempio, a seconda del tipo di sport che si pratica, che sia appunto uno sport su due ruote, quindi ciclismo, motociclismo, piuttosto che sport sulla neve o sport sull'acqua, il tipo di aggancio cambia. Alcune action cam che non piacciono molto agli appassionati consentono semplicemente uno o due modalità di attacco possibili, e poi per avere una versatilità anche degli attacchi, diciamo, adesivi, che si sa che ovviamente non possono tenere più di tanto, non hanno una morsetteria adeguata. Ecco che questi accessori il più delle volte fanno la differenza, quindi si sceglie la action cam anche e soprattutto in considerazione degli accessori. Sony, che voleva dimostrare di avere molti accessori per la sua, ha anche mostrato in una fiera recente un accessorio per montare l'action cam su un cane, e quindi per fare di fatto la soggettiva del cane, che si porta in giro come se fosse uno zainetto questa action cam. Ma questo è chiaramente un esercizio di stile, ma esistono moltissimi accessori. Il più delle volte si controllano prima gli accessori e poi le caratteristiche dell'action cam. Tu hai citato la Sony, sicuramente La marca più famosa dell'action cam è la GoPro. Quali sono i nomi più noti? Ma GoPro sicuramente è molto importante, Drift anche. Devo dire che i grandi nomi sono stati un po' presi alla sprovvista dal successo di queste categorie di prodotti. L'hanno sottovalutato in un primo momento, permettendo a dei marchi nuovi e assolutamente specializzati di arrivare sul mercato. Adesso si stanno risvegliando, e per cui arrivano anche dei nomi che conosciamo già per altri motivi, quindi Sony e JVC per esempio, che hanno degli ottimi prodotti. Da questo punto di vista non c'è un motivo vero per scegliere in realtà una marca specializzata o una marca più generica che ha però dei buoni prodotti, salvo il fatto che nelle comunità di appassionati, si sa, vale forse molto di più anche l'emulazione, o il fatto di aver visto che gli amici, i colleghi di disciplina sportiva hanno scelto un tal modello, e magari si sa, squadra che vince non si cambia, soprattutto nello sport, quindi se quel modello va bene al collega andrà bene anche a me, e quindi si sceglie per confermare quel tipo di marchio, che è un po' il meccanismo che ha fatto il successo di GoPro in questi anni, che è penetrata in maniera molto forte soprattutto nel mercato degli sport acquatici, nel mercato degli sport invernali, della neve, e anche in certe applicazioni, per esempio per la bicicletta, non tanto da strada quanto mountain bike o la discesa sui sentieri, e discipline di questo tipo. Non costano poco queste videocamere. Qui vale il principio che quando uno è appassionato è disposto a spendere anche alcune centinaia di euro, perché stiamo parlando di i modelli di punta costano 400-500 euro. Assolutamente no, infatti quello che stupisce è il prezzo di questi apparecchi, che è ben più alto anche di una videocamera in alta definizione, quelle diciamo più tradizionali che siamo abituati a conoscere. In realtà bisogna tener conto di alcuni fattori. Uno è quello che dicevi tu, il fatto che l'appassionato tende generalmente a essere un po' meno elastico al prezzo e quindi è disposto a spendere un po' di più per alimentare la propria passione, e qui stiamo parlando di un mercato di appassionati, non tanto di video quanto della disciplina sportiva che vanno a riprendere. Un po' è il fatto che stiamo parlando in alcuni casi di apparecchi che hanno delle tecnologie molto sofisticate. Se parliamo del modello di punta della GoPro, la Hero 3 ha addirittura la capacità di riprendere in risoluzione Ultra HD o 4K, quindi 4 volte il Full HD, e tra le altre cose è anche l'unica videocamera consumer al momento sul mercato in grado di fare riprese in 4K. Quindi è una cosa abbastanza strana, perché non si direbbe che un'ottica di questo tipo e una videocamera di questo tipo compatta necessiti di una risoluzione 4K, ma evidentemente si sa, spesso sono sport estremi e questa tendenza all'estremismo si riflette alcune volte anche sulla tecnologia, e questo è un esempio. Quindi sì, sono un po' costose probabilmente per quell'effetto, ma anche perché le tecnologie che sono inserite sono molto importanti. Non dimentichiamoci che molti modelli hanno anche un sistema abbastanza sofisticato di stabilizzazione ottica, che proprio per il tipo di riprese che devono essere fatte è una delle funzionalità più importanti richieste a questo tipo di apparecchi. E questa era la voce di Gianfranco Giardina, che ci ha parlato di Action Cam. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale di Day.it. Di Action Cam si occupa anche Nova, il magazine settimanale, l'inserto settimanale della domenica del Sole 24 Ore dedicato all'innovazione. Domani troverete anche un approfondimento molto interessante sulla privacy, sul concetto di privacy nell'era di internet e dei social network, partendo da una storia molto originale e interessante negli Stati Uniti, dove c'è una scuola che prima di accettare gli studenti, o in fase di accettazione degli studenti, fa uno screening dei social network, di Facebook e degli altri social network, per capire, per fare una scheda digitale e quindi anche relativa alla privacy di chi va a scuola, parlando poi anche delle conseguenze. Articolo e approfondimento firmato da Luca Tremolada, che troverete appunto domani con Nova assieme al Sole 24 Ore in edicola oppure in abbonamento digitale. Dunque, a questo punto concludiamo questa puntata parlando di aziende. Allora, in Italia abbiamo una percentuale bassa purtroppo dell'utilizzo di internet, ma questo non riguarda solamente le persone, riguarda anche le aziende, che non approfittano di quello che sta succedendo nel mondo per raggiungere nuovi mercati, per aumentare la competitività, eccetera eccetera. Ne abbiamo parlato agli Internet Days questa settimana a Milano con il professor Giuliano Nocci, che è ordinario di marketing ed è prorettore del Politecnico di Milano. Ma quello che sta succedendo è chiaro, direi ormai, nel senso che quello che viene chiamata come rivoluzione digitale in realtà è un qualcosa di molto più complesso ed articolato, che va, secondo me, io caratterizzerei come grande cambiamento sociale abilitato dalle tecnologie digitali. In altre parole, è sotto gli occhi di tutti i radioascoltatori il fatto che la nostra vita è cambiata da quando ci sono gli smartphone. Fruiamo di contenuti in mobilità, in un certo qual modo la stessa televisione non è più quella che guardo solo quando sono in soggiorno, ma è quando aspetto la metropolitana o comunque quando ho dei momenti di attesa. Quindi, a fronte di questo grande cambiamento che incide profondamente nella vita degli individui, il sistema delle imprese, nelle varie industrie di riferimento, non può pensare, come ha fatto in realtà negli ultimi anni, pensare di ragionare in una logica incrementale, cioè dire: ma c'è la tecnologia digitale, in qualche modo cerco di adeguare i processi a questo tipo di cambiamento. No, in realtà non occorre reingegnerizzare, occorre in molti casi reimmaginare il modo di fare impresa. Questa è la sfida che le nostre imprese italiane, ma non solo, dovranno vivere nei prossimi anni. Quando parliamo di rivoluzione digitale, parliamo di una rivoluzione che coinvolge tutte le imprese, anche quelle che si occupano di ferro, di acciaio? Assolutamente sì. Prendo proprio l'esempio che diceva lei, quello dell'acciaio. Sostanzialmente l'industria dell'acciaio, come è noto, versa in una gravissima crisi. Ci sono casi di aziende americane che hanno cavalcato il digitale per costruire un nuovo posizionamento di mercato. Sulla base di che cosa? Uno, far vedere che l'acciaio è un materiale che ha molte destinazioni d'uso. In secondo luogo, che è un materiale che ha certe caratteristiche verdi. Detto questo, per costruire questo nuovo posizionamento, cosa hanno fatto? Hanno lavorato molto di website, di web, sito web, che diventa elemento attraverso il quale costruiscono una narrativa, e in secondo luogo hanno lavorato sui social network per costruire relazioni con gli influenzatori, creando community con il mondo degli architetti e così via. Quindi direi che è veramente un fenomeno pervasivo, che evidentemente, ma credo sia il senso della sua domanda, assume connotazioni specifiche in relazione all'industria a cui si fa riferimento, ma nessuno ne può prescindere. Perché, non so se solo in Italia, ma comunque mi pare che poche aziende abbiano compreso questo cambiamento. Qual è il motivo? Guardi, devo dire, lei ha bene rilevato come è soprattutto in Italia. Ma questo lo dicono anche le indagini dell'Unione Europea, che evidenziano come in Italia vi sia una bassa penetrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Soprattutto quando si parla di business, cioè lo stesso imprenditore magari usa un telefono avanzato quando è in giro, ma nell'azienda è poco propenso a utilizzare i sistemi informativi, ad integrare le tecnologie digitali nei propri processi. Quindi è figlio di questo atteggiamento culturale. E in qualche modo questo atteggiamento vincola le scelte delle aziende. Quindi diciamo che è cultura e approccio mentale rispetto alle tecnologie specifiche, e mi lasci dire, anche una certa inerzia di sistema che si respira, come dire, anche in questi giorni, in queste ore, da un punto di vista del cambiamento anche a livello politico, credo che spieghino questo relativo ritardo che il paese vive in relazione a questa sfida, che è una sfida di grandissima portata, che va ben al di là dell'aspetto tecnologico-tecnico. Beh, in questi casi si dice chi ha orecchie per intendere intenda, ma sicuramente voi che avete scaricato questa versione podcast di 2024 avete orecchie per intendere e direi che probabilmente avete già inteso. Però non ci dobbiamo mai stancare, né noi da questa parte né voi dall'altra parte, poi in realtà siamo tutti dalla stessa parte perché ci occupiamo tutti di tecnologia e a tutti noi sta a cuore lo sviluppo di questo paese, perché la tecnologia può essere sicuramente un fattore di sviluppo di questo paese. Bisogna evangelizzare e far capire anche con esempi molto banali, a volte, altre volte invece gli esempi sono complessi, come la tecnologia può cambiare la nostra vita, il nostro lavoro, rendere le nostre aziende più efficienti, più competitive. Sta succedendo una cosa incredibile in tutto il mondo, la tecnologia sta radicalmente cambiando i processi, sta dando nuove opportunità, pensate alla capacità di analisi che le aziende oggi possono avere tramite i cosiddetti big data, tutte le tecnologie di analytics, come dicono gli esperti. Tutto ciò sta accadendo, ci sono paesi in giro per il mondo dove le aziende stanno investendo pesantemente su queste tecnologie. In Italia ci sono quelli che hanno capito, ma purtroppo ci sono anche molti che non hanno proprio capito, e queste aziende sono destinate molto probabilmente a soccombere. Questo è un peccato sia per le aziende e per i lavoratori di quelle aziende, ma un po' per tutto il paese. Quindi non stanchiamoci mai di parlare di questi temi anche con amici, parenti, conoscenti nelle nostre comunità ristrette o allargate, in provincia, in città, eccetera eccetera. Io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, grazie per esservi iscritti al nostro podcast, per aver scaricato questa puntata di 2024. Continuate a scriverci per raccontarci come voi ci ascoltate, sono molti i nostri ascoltatori che ci raccontano, alcuni questa settimana leggevo, ci ascoltano mentre vanno al lavoro, alla mattina in treno o alla sera anche quando tornano, idem in automobile. Attenzione perché in bicicletta le cuffiette forse non sono permesse, però si può chiudere un occhio se si ascolta 2024. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio anche Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana. Scriveteci a 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana, vi ricordo i nostri nuovi orari nel nuovo palinsesto di Radio 24. se avete l'occasione di ascoltarci in diretta in FM o in digital radio o anche in streaming, il sabato tra le 15 e le 16, in replica la domenica alla sera tra le 23 e mezzanotte, tra le 23 e le 24. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.